Cari amici, continuiamo la lettura di queste letture bibliche quotidiane della messa nel rito ambrosiano. Oggi è il primo libro di Samuele, capitolo 28. Come vedete, si va avanti a grandi salti, no? Siamo solo alla quinta puntata, ma avremmo dovuto già leggere 28 capitoli. Per questo so che qualcuno si è messo con gusto a leggere i capitoli che noi saltiamo, io ve lo suggerisco. È una lettura facile, è una lettura proficua e ci permette di capire bene anche quello che noi stiamo facendo, perché oggi abbiamo una pagina molto bella, anche un po' difficilina. Allora, Samuele è morto dopo che ha comunicato a Saul che Dio lo ha scartato. Lo ha scartato dall'essere re di Israele, ha già scelto Davide e per questo abbiamo sentito anche ieri che Saul combatte Davide per cercare di farlo fuori. Adesso però si trova in una situazione veramente tremenda. Ci sono i filistei che hanno attaccato, dice questo testo, quando Saul vide il campo dei filistei, ebbe paura, il suo cuore tremò. Saul consultò il Signore, ma il Signore non gli rispose, né attraverso i sogni, né mediante gli Urim, né per mezzo dei profeti. Allora Saul dice, da disperato, andate a cercare una negromante, cioè una maga che parla coi morti, che evoca i morti. Capite che è un capitolo delicatissimo perché tutto questo riguarda la magia e va contro il primo comandamento, non avrai altro Dio fuori di me. Saul lo sapeva benissimo perché li aveva banditi dal suo regno, costoro, ma adesso che è disperato vorrebbe sentire il parere del suo grande amico e protettore di una volta, Samuele, ma ormai Samuele è morto, si trova spiazzato, allora dice voglio attraverso una maga parlare direttamente con Samuele, allora si camuffa. Va con un paio di uomini, va da quella donna di notte e dice: pratica per me la divinazione, cioè quello che sarà il futuro, mediante uno spirito. Evocami quello che ti dirò io. La donna gli dice: ma lo sai che Saul ha proibito tutto questo? Dice: guarda, ti giuro, non avrai nessuna colpa. Vai, dice, chi devo evocarti? Evocami Samuele. La donna vede Samuele. Dice: allora, mamma, tu sei, mi hai ingannata, tu sei Saul. Non aver paura, dimmi cosa vedi. Vedo un essere divino che sale dalla terra. E lo descrive, un uomo anziano, avvolto in un mantello. Saul si inginocchia con la faccia a terra, si prostra. E Samuele gli dice: perché hai fatto questo gesto? Evocandomi, non si ha da fare, dice: guarda, sono disperato. E ti ho chiamato perché tu mi manifesti quello che devo fare. E Samuele dice: è inutile che tu mi consulti. Il Signore si è allontanato da te. Il Signore ha fatto di te quello che ti ha già anticipato per mezzo mio. Ti ha scartato, ha strappato via il regno da te e l'ha dato a un altro. Perché tu a suo tempo hai sbagliato nel periodo in cui hai regnato su Israele. E allora fin da adesso ti dico che sarai sconfitto. E poi dice una frase tremenda: domani tu e i tuoi figli sarete con me. Cioè sarete morti. Io quando leggo questa frase mi viene in mente un esorcismo in particolare che ho fatto, dove esorcizzando questa donna posseduta, Io dialogavo un po' con Satana, gli chiedevo il suo nome, gli chiedevo come ha fatto entrare, gli chiedevo, insomma, è venuto a sapere che era stata una parente stretta di questa persona. E allora io ho detto ai presenti, ai miei collaboratori, ai parenti di questa persona, ho detto: guardate, preghiamo per questa povera donna che ha fatto questa fattura così tremenda. Ho detto: chiediamo che questa donna si salvi l'anima almeno. E allora lì ho sentito proprio questa frase di Satana che dice: lei è già qui con me, mi ha gelato il sangue, mi ha gelato il sangue. Ci diceva: è qui all'inferno. Ora io so che Satana è un bugiardo, no? Per cui non credo quello che dice, però comunque, insomma. E allora io e te, io prego ugualmente per questa donna. Però quando io ho ritrovato in questo brano Samuele che dice: domani tu e i tuoi figli sarete con me morti. Cari amici, vorrei aggiungere ancora una cosettina, no? Perché qualcuno potrebbe dire: Don, ma che differenza c'è tra qui è proibito evocare i morti e perché ci sono per esempio una tuzza Evolo, che lei invece parlava con le anime trapassate, con le anime del purgatorio, con le anime, ma ci sono anche altri casi nella storia della Chiesa. Guardate, c'è una differenza fondamentale, fondamentale. Qui l'errore, il peccato sta in chi vuole chiamare lui i morti, evocare lui i morti. Questo non è mai permesso, perché per fare questo uno chiama in causa Satana, chiama in causa la magia, e questo è un gravissimo peccato contro il primo comandamento: non avrai altro Dio all'infuori di me. Non bisogna mai, mai, mai, mai dipendere dal maligno. Oh, lui ti aiuta come un mafioso, ma non ti molla più. Satana è felicissimo quando gli uomini gli chiedono aiuto. E Satana piange, non piange perché non prova sentimenti né di felicità né di paura né di dolore, perché è un demone, è insensibile totalmente al bene e al male. Però lui, usiamo pure questo linguaggio, lui gioisce quando noi dipendiamo da lui. Chi fa dei patti, chi lo chiama, chi lo invoca, chi si consacra, chi fa le fatture, si mette in mano a Satana perché si fa del male a delle altre persone col malocchio, con le maledizioni, con le fatture, con le legature, tutto questo. Queste cose non le fa mica Dio, amici, le fa Satana. Non vi rendete conto? Io durante un esorcismo ancora, durante un esorcismo, non so bene come la cosa sia venuta fuori, però quando si presenta una persona che aveva fatto questo male e dice in dialetto: se avessi saputo, e si mette a piangere. A piangere, ma con un pianto che io raramente in vita mia ho sentito un pianto così disperato, così sconsolato. Questa diceva: il Signore ha permesso che si rendesse presente quest'anima, forse dannata, non lo so, io spero sempre di no, ma se avessi saputo, amici, teniamo presente. Non imbarchiamoci mai in queste cose, mai. Dicevo invece, Natuzza Evolo erano le anime che venivano a lei, lei non li cercava, era Dio che li mandava per mandare dei messaggi. È totalmente diverso, avete capito la distinzione, no? Se Dio permette, se Dio vuole e ti manda, bisogna essere santi alla maniera di Natuzza o alla maniera di Padre Pio. che ti manda questi messaggi dall'aldilà, sta in pace. Ma se tu pretendi di andarli a cercare per tua utilità, guai a te, guai a te. Entri dentro in un capitolo infernale. Va bene. Allora, pregate sempre anche per me, esorcista, e poi leggetevi il primo libro di Samuele, perché poi dopo noi andremo avanti e bisognerebbe che voi foste aggiornati. Ciao!